rien. Non, je ne regrette rien. La virgola di Elisabetta. Ciao a tutte. Il separatismo, lotta femminista e lesbica e lotta di classe. Ci sono forti pressioni che spingono per il superamento del separatismo come pratica di lotta femminista e lesbica. L'attuale stagione neoliberista, dietro una facciata riformista e modernizzatrice, tra virgolette, propugna e attua in tutti i campi l'annullamento delle conquiste degli anni 70 ed un ritorno agli anni 50, con il tentativo di assopimento della conflittualità sociale attraverso appelli al buonismo e alla convivenza civile, panacea dei conflitti di genere e di classe, appelli peraltro sempre solo rivolti alle oppresse e agli oppressi. Le oppresse e gli oppressi non sono più presentati con una loro caratterizzazione costituita dalla collocazione lavorativa e sociale, ma come un indistinto, spesso fatto percepire come criminale e fuori dalle regole. In questo progetto si inserisce il tentativo di trascinamento dal femminismo al femminile e di riduzione della lotta delle donne ad una generica conflittualità fra i sessi, facendo dimenticare completamente la natura strutturale dell'oppressione di genere e della violenza dei maschi sulle donne. Conflittualità che dovrebbe essere risolta, secondo loro, attraverso un sereno e collaborativo confronto tra maschi e femmine, in cui ognuna delle parti porta le proprie ragioni e insieme risolvono i contrasti, con buona pace della famiglia. È questo, ad esempio, il senso di iniziative come Se non ora quando. La donna a cui si rivolge questo appello, accantonate naturalmente le reprobe, escort e affini, ribadendo oltretutto la divisione fra sante e puttane, viene descritta come casa e cura, madre, moglie e figlia, con la tessera di qualche partito, non importa quale, sindacalista, imprenditrice, volontaria. Vengono assolutamente annullate le differenze politiche e i ruoli nella società. Si danno per scontate questa società, civile e accogliente, secondo loro, la famiglia e l'eterosessualità, e si fa appello ad una moralità che tutte ci dovrebbe unire all'insegna della nazione patria. Vengono completamente cassati anni di lotte e di repressione e dimenticata una struttura sociale basata sullo sfruttamento, sull'ingiustizia, sulla disperazione della stragrande maggioranza della gente e in particolare delle donne. Repubblichine e partigiane, donne borghesi indifferenti a tutto e forti dei loro privilegi e donne sfruttate e avvilite, donne in carriera che licenziano e donne licenziate, vengono tutte accomunate in un ruolo indistintamente femminile e dovrebbero tutte concorrere alla costruzione di questa società. È la riproposizione di Dio, patria, famiglia. E assertore di questa impostazione non è il centrodestra, che pure ribadisce continuamente, secondo i suoi principi, il ruolo subalterno e di servizio della donna in questa società, bensì il centrosinistra, i riformisti e i socialdemocratici, che sono i maggiori sponsor dei principi neoliberisti. È in questo contesto che quelle stesse componenti socialdemocratiche che negli anni 70 hanno usato il separatismo per snaturare e stravolgere la dimensione di classe della lotta di genere, che oggi chiedono a gran voce il superamento del separatismo nella lotta delle donne. Quella volta, ob torto collo, dovendo fare con il movimento femminista i conti, hanno usato il separatismo per appropriarsene e togliere ogni valenza di classe. Oggi, nella stagione neoliberista, arrivano all'impudenza di chiedere il superamento del femminismo, perché dietro la parola d'ordine superamento del separatismo questo c'è. Ma il separatismo è uno strumento, è una necessità di tutte e tutti coloro che portano avanti una lotta contro le oppressioni che hanno delle componenti trasversali, come lo è stato per il Black Panther Party, perché è una difesa, una zona franca, una garanzia di riconoscimento, una forza. Soltanto in ambito separato è possibile sviscerare, comprendere, razionalizzare le contraddizioni che la lotta femminista e lesbica si trova a dover affrontare nell'intreccio delle oppressioni di genere, razza e classe. Contemporaneamente siamo consapevoli della necessità di collegarci con le altre realtà che lottano contro le oppressioni che esprime questa configurazione sociale, perché non esistono percorsi di liberazione che siano corporativi. Per questo, oggi come non mai, è necessario salvaguardare e difendere il separatismo. Come nella società non è sufficiente per scardinarne la struttura, l'endemico conflitto capitale-lavoro, ma è necessaria la presa di coscienza di classe, così la lotta di liberazione delle donne passa necessariamente attraverso la presa di coscienza di genere. Il separatismo oggi è la dimensione di classe della lotta femminista e lesbica. Ciao! No, rien de rien. Non, je ne regrette rien.